This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new values, and a new experience. Stereophonic sound. Allora, questo è un viaggio nei suoni che ci porterà attraverso nuovi colori, nuovi valori e una nuova esperienza. Il suono stereoscopico. No, sarebbe stereofonico in realtà. Però la stereoscopia in realtà è qualcosa che è legato all'oggi, al tema di oggi. Cioè la stereoscopia è questa formula fantascientifica che stanno cercando in continuazione di fare il cinema in 3D, ma non si capisce ancora se ci si riesce. Oggi hai parlato anche di 3D, vero? Oggi ho parlato di 3D, mi sa di no oggi. No, vabbè, ok. Delle nuove uscite forse. Delle nuove uscite, sì. Allora, salutiamo gli ascoltatori. La prima cosa, insomma. Sì, che ci ascoltano in questa nostra ricerca intorno ai mezzi di espressione e siamo sempre più entusiasti di essere accolti, questa volta finalmente da visionari. Allora, il Valle è veramente nella visione dei visionari. cioè, siamo veramente contenti perché io in particolar modo ascolto Visionari da tempo La ritengo sempre una trasmissione strepitosa, puntuale, sul qui e ora del cinema in Italia e oltre. Mi emozioni. Un fatto. Detto questo, noi oggi diamo anche dei riferimenti per quanto riguarda chi volesse contattarvi. Dai, diamo subito. Bellissima questa cosa. Dunque, il nostro sito è il teatrovalleoccupato.it. Senza il www.teatrovalleoccupato senza cioè E anche insomma su Facebook siamo molto attivi, su questi social network che sono croce e delizia, e questa sarà anche parte di quello di cui parleremo oggi, perché stiamo molto sui mezzi di comunicazione, in quanto il Valle, oltre a essere un esperimento, una rivolta, è anche un bacino e un veicolo, e quindi una nave per quanto riguarda la formazione dei lavoratori dello spettacolo, della cittadinanza e oltre. Quindi per lavoratori dello spettacolo noi siamo tanti, siamo quasi 250.000, e ci distinguiamo per varie sottocategorie, diciamo, come quella del cinema. E qui insomma volevo dire che noi siamo entrati al Valle come lavoratori del teatro e del cinema, della danza, della musica, e molti di noi sono prettamente cinematografari, montatori, registi, tecnici anche. Attori, sceneggiatori, appassionati. Detto ciò, volevamo un po' venire qui oggi per capire come il Valle si rapporta al cinema. Ha fatto una programmazione finora importante, abbiamo ospitato delle anteprime come il film di Vicari sulla nave La nave dolce, che tra l'altro la proiezione è stata anche un po' dinoccolata, perché nonostante tutto facciamo degli sforzi per fare delle proiezioni di qualità, ma quando la tensione è alta le tecnologie a volte ne risentono, si irrigidiscono. E però insomma la cosa è stata poi risolta rispetto alle tecniche di proiezione. Quindi oggi parleremo di cinema, e abbiamo anche non ho ancora cominciato a parlare del rapporto del Valle con il cinema, però non volevo prendere troppo la parola perché siamo in tanti e vado, e quindi continuo a parlare. Dunque, No, è importante che questa trasmissione di oggi cominci ad aprirsi anche sui suoni. Infatti abbiamo invitato degli ospiti, in primis lo presento tra poco, continuo a parlare ancora un po' di cinema in generale rispetto al Valle. E però vogliamo iniziare con questa trasmissione oggi a fare dei suoni qui dal vivo, cioè a fare della musica, e quindi ci saranno dei momenti anche di musica dal vivo. Non so se vi capita di farne qui. Sì, sì, okay. Ci sono musicisti che vengono. Io poi ci tenevo a raccontare anche alcune altri momenti che sono stati per noi importanti, sia di formazione, e non scherzavo quando parlavo del cinema 3D, perché, come tu mi insegni, ha una storia lunghissima il cinema stereoscopico. Addirittura Eisenstein faceva degli esperimenti di cinema stereoscopico, cioè in 3D. Poi negli anni 60 ci fu un momento di rilancio. Insomma, sembrerebbe sempre che questo 3D possa diventare il nuovo passaggio di linguaggio, come lo è stato per il suono, come lo è stato per il colore. E volevo appunto raccontare il nostro momento formativo rispetto a questo, perché abbiamo avuto una fortuna incredibile. Cioè, a un certo punto, come a volte capita in situazioni di occupazione, perché avvengono in luoghi e in spazi molto interessanti a livello proprio architetturale e di spazio fisico, capita che delle produzioni si innamorino di questi posti e vengano a proporti di girare delle immagini in questo posto. Quindi durante la nostra occupazione sono venuti a proporci di girare un film in 3D e abbiamo in qualche modo scoperto questo linguaggio, perché di linguaggio si tratta. Cioè, io pensavo fino a poco tempo fa che fosse semplicemente un sto parlando tantissimo, sarebbe bello sentire un po' di musica, va bene, ma che è il cembalo quello? Come? Il cembalo. No, qui abbiamo un violoncello, tra l'altro, e tra poco lo ascolteremo. Chiudo dicendo che nel 3D c'è della poesia, nel senso, come un direttore della fotografia stabilisce gli obiettivi, quindi è praticamente la grafia, il fuoco che deve avere l'inquadratura, la profondità di campo, così il 3D è qualcosa che può disegnare delle storie, può raccontare delle storie attraverso la quantità di profondità, di stereoscopia, cioè di quanto questi personaggi escano fuori e quanto tu quindi devi essere immerso e compreso nella storia. Era lunga come introduzione, lo so, mi sono dilungato. Quindi volevo appunto presentare il nostro ospite, che è Valerio Vigliar, che ci ha seguito per un po' all'inizio anche dell'occupazione, verso i primi mesi. Mi ricordo che abbiamo incontrato Valerio piacevolmente e gli abbiamo anche proposto di fare una permanenza artistica al Valle. Com'è andata questa? Te la ricordi? Intanto buonasera a tutti. Bravo. È una buona presentazione. E intanto... E vorrei insomma raccontare quello che è successo tra me e il Valle, anche rispetto a tutto quello che tu hai detto fino adesso, cioè partendo dal concetto di visione, sì, che secondo me è fondamentale per ogni artista e che molto spesso alcune categorie, soprattutto secondo me gli attori, gli sceneggiatori, molto spesso dimenticano che non è tanto importante studiare per avere tecnica, ma studiare per costruirsi un proprio immaginario, una propria visione da proporre. E in questo senso qui il Valle mi ha permesso di fare tanto, cioè mi ha dato gli strumenti, lo spazio e il tempo affinché io potessi realizzare realmente una mia visione. E io sono un compositore che normalmente lavoro tra cinema, teatro, poi anche faccio molta attività concertistica. Però uno dei miei tanti sogni era quello di fare uno spettacolo tra virgolette multimediale. E al Valle ho avuto questa magica opportunità, per cui ho potuto legare tutto quello che mi piaceva e cercare di trasferire la mia visione agli spettatori. Lo spettacolo è andato molto bene, tra l'altro era anche un esperimento particolare, perché è anche secondo me abbastanza coerente con il mio percorso, perché io sono fondamentalmente un musicista. Aveva un titolo? Sì, era praticamente uno spettacolo basato su un mio disco strumentale che si chiamava L'Eternità. Si chiama L'Eternità. E quindi ho, anche collaborando con un amico videoartista, ho fatto questo spettacolo che non saprei neanche dirti se è uno spettacolo di teatro danza, in cui ci sono delle proiezioni, in cui ovviamente il fil rouge erano le canzoni. Però ho cercato molto di giocare con lo spazio, per cui utilizzando tutti e due gli schermi che c'erano al Valle, il set di luce che ho trovato, due ballerine, performer. Insomma, è stato straordinario. Questo soltanto per farvi capire quanto il Valle e spazi come questo, che puntano secondo me su anche il voler poter pensare a nuove forme di produzione. Questa è una cosa che insomma, mi ha molto colpito e insomma ne ho goduto fortemente, non so che dire, cioè, al di là del fatto che era tutto tempo tra virgolette gratuito, ma ho sentito di poter veramente una volta nella mia vita in una città come questa investire su una cosa in cui credo molto, che è la cultura. Insomma. Era tutto attraverso una cortina di nebbia, perché ci ha riempito il Valle totalmente era di fumo. La mattina ci svegliavamo con l'allarme, ci buttava giù dai camerini, pensavamo che stesse andando a fuoco tutto, invece era solo il fumo delle prove. Sì, perché praticamente all'inizio dello spettacolo abbiamo avuto l'idea di invadere completamente la platea di fumo da discoteca, per usare delle luci. Guarda, se lo trovo, guarda, lo mandiamo, perché c'è proprio ancora il video con la voce dell'allarme del Valle. Sì, è vero, perché il fumo finto fatto con la macchina del fumo innescava l'antincendio, che aveva una voce femminile registrata negli anni 30. Sì. Vigliar, volevo raccontare appunto Valerio, che è stato autore di colonne sonore di recente uscita, come per L'Ultimo Terrestre, prima ancora per Good Morning Amam. E non so, potremmo ascoltare anche qualcosa rispetto a questo. Io ho aperto anche la tua cartellina, la pennetta. Tra l'altro Claudio Noce è un amico, insomma. Allora, scusa, mettiamo Good Morning Amman, che è la canzone. Dai, salutiamo Claudio, che accompagna, diciamo, il film Leitmotiv. Dai, leggi qualcosa. Inciso, perché volevamo disseminare di indizi la trasmissione. Ah, che bello. Perché prima o poi faremo una produzione radiofonica, vero Emiliano, Lorena? Sì. Allora, disseminiamo di indizi. Primo indizio. La cosa più triste è quest'orgia di parole inutili, dice il vecchio. È come se le diluisse, le snatura. Circonvoluzioni, salamelecchi, perifrasi, metafore protocollari e poi alla fine uno non è neanche certo che il messaggio sia passato. Per un momento mi perdo a sognare una lingua senza veli e senza belletti, una lingua proibita ai cortigiani e ai virtuosi della lusinga. Invece di cambiare le carte in tavola con un poker di chiacchiere, sbotto. Basterebbero 4 frasi precise e sincere per dire esattamente quel che si pensa. Sarebbe la fine del mondo. Break making it even. And it's more than enough, yeah. Been watching the days gone through faces I've always known. I trace it on the scars, a map of an existence. And I think I'm gonna stay where I cannot hide. Yes, it's true, when you won't, I will just show up. Cause it's you I will hold on to lift me up. As I wonder why, am I invisible? Questo era Valerio Vigliar da Good Morning Amam, film di Claudio Noce del 2009. Era cinema muto, era. Era 2009, il Festival di Venezia, la settimana della critica. Esatto. E questa era anche la voce di Mia Giulia Schettino, ci tengo a dirlo, insomma. Allora, come è andato il processo di creazione di questa musica per il film? Allora, è successo fondamentalmente che ho letto la sceneggiatura. Ho scritto un bel po' di cose e la metà di queste cose che ho usato sono state usate come metà colonna sonora. Il resto è stato costruito piano piano durante il montaggio, proprio l'editing delle immagini. Sei stato alle riprese anche? Presente, sì, alcune location. Cioè, andavi sul set e gli facevi sentire qualche cosa? No, perché non avevamo avuto così tanto tempo. Diciamo che io ho letto la sceneggiatura mentre stavano girando, per cui poi quando hanno finito di girare tutto il materiale in fase di montaggio ci siamo comunque trovati a già a buon punto. Quanto si deve avvicinare quindi gli strumenti, l'impianto musicale alla storia, al significato? Ma io cerco sempre di innanzitutto di creare un rapporto di comunicazione molto profonda con, almeno ci provo, con il regista, nel senso che almeno io ho una visione piuttosto fascista, tra virgolette, di come bisognerebbe utilizzare la musica al cinema. Nel senso che fascista, nel senso che è una è caduto il gelo qui, pure dall'altra parte. Dei brividi sulla schiena. No, fascista nel senso di avere una visione molto chiara, netta e decisa, nel senso che non mi piace molto quando la musica viene utilizzata solo come abbellimento o supporto a cose che vengono già dette dalle immagini e dai dialoghi. E quindi cerco da una parte molto di lavorare sulla sonorizzazione, per cui utilizzo a metà del mio lavoro, è almeno quello che mi piace fare, prendere e partire da quello che sento della presa diretta e lavorare proprio di musica concreta, cioè di fare una sorta, non è proprio musica, è cercare di tirare fuori la parte proprio più profonda degli armonici quando sento la presa diretta, per cui lì lavoro quasi in musica elettronica. Poi ovviamente come musicista io adoro scrivere cose che diventano quasi un terzo personaggio. Mm-hmm. E però mi rendo conto che è molto difficile, perché devi trovare una persona dall'altra parte che abbia la stessa sensibilità, quindi è quello un po' la cosa che a volte mi fa soffrire, ecco. Però devo essere sincero, con Claudio era anche troppo, perché lui utilizza moltissimo la musica, quindi c'era musica. E invece l'ultimo terrestre è stata una diciamo un'esperienza piuttosto significativa per me, perché GP, che è il fumettista che ha fatto come la sua opera prima questo film, è davvero insomma un grande artista, e quindi c'è stato un livello di comunicazione veramente pazzesco, nel senso che mi sono permesso di fare o ho fatto delle cose durante la lavorazione delle musiche che non mi aspettavo di fare, perché c'era lui lì che mi incitava. E mi diceva, vai, come cazzo? Cioè, diciamo che ho fatto delle scelte estreme che magari in altri contesti non mi sarei potuto permettere di Quale fare. Quale sentiamo? Ecco. Il mio posto? No, aspetta, c'è la creazione. No, dall'ultimo terrestre c'è la corsa. Si prepara la corsa. Thank you. quanto agli altri, è difficile dire se siano o non siano pessimi. È un curioso miscuglio di buona volontà e dilettantismo. In ogni caso, sembrano crederci, come noi. E se certe volte ignorano il significato più recondito di un dialogo o trascurano l'intensità drammatica di un gesto, non ce la prendiamo troppo. Sono, come noi, imbarcati nella saga. Come noi stanotte sono rimasti svegli insieme alle loro famiglie. Grazie Francesca, questi indizi ci portano verso visioni future. Allora, Valerio, adesso saprete cosa. Valerio, tu hai fatto anche un'operazione molto bella al Valle, hai musicalizzato dal vivo un film muto. Sì. E, che sì. Film era? Allora, era un film del 1928 russo che si chiama La Nuova Babilonia, è un film strepitoso, ambientato durante la Comune di Parigi e ovviamente era un film che era stato commissionato dal Partito Comunista diciamo in quegli anni in cui si cercava di consolidare tutto quello che era successo e quindi venivano commissionati dei film a favore della classe proletaria, del comunismo e bla bla bla. Però questo film è stato prodotto ma poi non è annoverato tra quelli che diciamo che dovevano avere questa funzione, perché effettivamente all'interno del film viene completamente distrutto qualsiasi equilibrio, nel senso che ovviamente i comunardi, cioè coloro i quali all'interno del... Ci suona della, questa... Sì, nel senso che sicuramente gli ascoltatori, alla maggior parte degli ascoltatori di Radio Onda Rossa sanno, però i comunardi sono quella, diciamo, quella parte del popolo che si ribellò allo status quo. Nel nostro statuto, statuto della Fondazione Teatro Valle Bene Comune, la definizione di quei soci che fanno parte integrante proprio della fondazione, esatto, la definizione di comunardi, che è molto bella, però durante questo film i comunardi ovviamente storicamente non fanno una bella fine, ma la cosa bella è che comunque anche se la borghesia tra virgolette trionfa, non è un vero e proprio trionfo, cioè c'è proprio lo smascheramento di tutte le parti secondo me in quel film. E quindi che è successo? Che io mi sono molto appassionato a questo film ed era una commissione che mi aveva fatto il Palazzo delle Esposizioni e sono stato felicissimo di portarlo al Valle, tra l'altro in una situazione molto particolare, perché il Valle ha sul palco due schermi, uno in fondo e uno sul proscenio. Noi abbiamo deciso di suonare dietro allo schermo, quindi la cosa fighissima è che molta gente alla fine ha fatto: oh, ma la musica, ma dove stavate? Cioè, ma la musica era registrata, no? Quindi noi stavamo dietro lo schermo, è stato insomma un'esperienza molto bella. Federico, non so, ci vuoi chiedere qualcosa rispetto al Cinema Valle Occupato? Il Cinema Valle Occupato, da quanto ho visto io, c'erano degli appuntamenti generalmente il martedì con i documentari, però insomma ci sono già stati, come dicevi tu all'inizio, anche diversi momenti importanti, per esempio la presentazione del film di Ivano De Matteo, che non è mai uscito in Italia e che era uscito solo in Francia, e che quindi è stata anche una serata molto partecipata, è stato anche un bel momento, non è stato l'unico, poi ce ne sono state altre di occasioni in questo senso. Come no, infatti poi c'è sempre il momento divertente del dibattito, no? Dopo sì, il film, sì. che invece insomma a volte prende anche delle note interessanti, mai come quando è venuto Enrico Ghezzi a farci una doppia proiezione nella stessa sala, con due schermi contrapposti, uno di fronte all'altro. E sono venute fuori cose lì, ci lanciava i DVD da un palchetto e ci ha parlato di alcune, poi ha coniato dei termini tipo il tramontaggio, che è rimasto storico nel gruppo Cinema del Valle, è diventato gergo. Sì. Che cos'è il tramontaggio? Bisognerebbe ridomandarglielo a lui. Avevamo anche una telefonata, una possibile telefonata, ma non sembra che... Va bene, io intanto compongo il numero, facciamo così. Potremmo anche comporre il numero e a questo punto, per esempio, c'è anche una delle colonne del gruppo Cinema del Valle, che è un attore, un artista che ha un curriculum molto invidiabile, che gli pregherei di accennare magari. Il curriculum? E che ne so, mi trovo qui, Buonasera a tutti, sono Marcello Fonte, mi ritrovo qui a Radio Onda Rossa dopo 9 anni, una volta sono venuto 9 anni fa e sono cambiate tante cose. Io ho fatto un percorso inverso, cioè a me il teatro non mi è mai piaciuto e mi sono ritrovato a riscoprire il teatro in questo posto, al Valle. Ho sentito parlare del Valle e sono andato lì con la presunzione dell'attore, di andare lì e mettersi in mostra. Cioè avevo tutto un concetto diverso, perché prima mi sono ritrovato a fare, diciamo, la televisione e tutte queste cose così, e invece andando avanti ho capito che, insomma, al Valle mi sono ritrovato, dovevo fare questo pezzettino con il curriculum con cui mi sono presentato e sono andato alle 10 di mattina. Sono andato alle 10 di mattina aspettando con l'ansia di fare sto pezzo e non si vedeva niente, non si guagliava mai, no? Io l'ansia saliva, più passava il tempo e più non sapevo che fare, mo che fare, questo teatro immenso, una cosa gigantesca, tutta platea, ordini, sti, luci contro un palco immenso. E quindi alla fine poi a un certo punto mi sono ritrovato con la spugnetta in mano. È un buon inizio, è un buon inizio. Vabbè, visto che aspetto, intanto a capire come devo iniziare. Uno come te che ha lavorato con Martin Scorsese. Vabbè, vecchi tempi, sì. Sì, ma è iniziato tutto da San Lorenzo, qua. Questo luogo per me è importante perché intanto a livello proprio concettuale ci ritroviamo tra la partenza, Termini, e l'arrivo, il Verano. Cioè proprio è un luogo di mezzo, quindi... Cioè è particolare, io qua ho imparato tanto perché mi sono ritrovato qua proprio a Via dei Latini, c'è stata sta botteguccia con questo signore che ancora oggi c'è, un grandissimo scenografo, Bruno Melappioni, e quindi ho iniziato a lavorare con lui e l'ho seguito nelle sue opere, cortometraggi, film, e quindi facevo il manuale, proprio l'attrezzista, e fino a quando poi piano piano sono arrivato a... non lo so, mi hanno chiamato, mi sono preso il numero, dice: ma te che fai? È questo che devo fare. Mi piaceva cantare mentre pitturavo, e quindi mi hanno inserito qua a fare la comparsa. È una comparsa. Arrivo lì, 600 persone, e mo mi ritrovo invece al teatro. Teatro che per me è stata sempre, l'ho visto sempre male, sti dei teatrali, tutta la cosa, cioè, preparazione psicologica, invece no, ho capito, basta respirare l'aria, stare lì senza fare troppe domande, senza basta starci là senza partire con pregiudizi e qui lì e così, ognuno arriva con la sua voglia di cambiare le cose, perché io c'ho l'idea fighia, cioè, quindi chi arriva è normale che subito vuole proiettare la sua idea al miglioramento. Respiriamo ossigeno. Respiriamo un po' di ossigeno, si va. E proiettiamo un film adesso. Nei miei sogni sono sempre prigioniero. Sono tutte situazioni in cui è una situazione sempre di prigionia, di carcere o... E se non è carcere, comunque è una situazione in cui sono imprigionato, non posso uscire. Sono comunque in una situazione di prigionia continua nel sogno. E oltretutto è anche bianco e nero, che mi dà fastidio perché invidio quelli che sognano a colori. E questo è un problema. È un problema che mi porto dentro da sempre. Cioè quello di non riuscire a liberarmi sia psicologicamente sia energeticamente del passato. Dopo 20 anni scopri che hai buttato la tua vita per niente, speravi la rivoluzione, speravi di cambiare la tua realtà, ti sei giocato rapporti, hai perso una figlia, hai perso tua moglie. Cioè l'aver vissuto 20 anni in tante carceri, cioè io ho girato quasi 50 carceri, aver vissuto 20 anni in queste situazioni, io ho assorbito, proprio assorbito un sacco di energie negative, no? E sono stato a contatto con tutti i tipi di umanità, assassini, della peggiore specie, uomini anche validi, voglio dire, non soltanto assassini, però sicuramente c'era un sacco di gente molto negativa. E starci insieme, tu assorbi questa negatività, quindi la interiorizzi e te la porti dentro. È questa che mi sembra di essere, di non riuscire a liberarmi. Io posso parlare di quelle che ho incontrato, dei miei amici, tipo Renato Curcio, Claudio Piunti, Battaglia, altri, insomma, gli amici che io ho visto in questi ultimi anni. Tutti sono stati toccati, tutti, in qualche modo, sono stati feriti. E io l'ho notato che, ad esempio, parlano meno di prima. Quando ci incontriamo con Renato ci abbracciamo, cioè non parliamo quasi mai del passato, a meno che non ce lo chiedono gli altri. Perché il nostro bisogno è di comunicare proprio a livello energetico, non a livello di pensiero, di pensare, no? O di far politica, che non ce ne frega niente. Però ho scoperto questo, che tutti in comune abbiamo, come se abbiamo perso qualcosa, che ci manca qualcosa, che c'è stata una mutilazione, che c'è stata qualcosa che è venuto a mancare, no? E lo scopro anche quando li incontro, appunto, no? Questo tacere che dice molto, invece, la dice molto, dice più il loro tacere che il loro parlare. E del resto, se uno deve attraversare l'inferno, è inevitabile che si deve bruciare, che sei scottato, che hai delle ferite. Cioè, non è possibile uscirne indenni, voglio dire. Con Moro mi resi conto che avevamo raggiunto la parabola, quindi sarebbe stata la caduta. Mi resi conto che cominciavamo a perdere, che quando la lotta diventò uno scontro più armato, cioè dove le armi presero il sopravvento sulla politica, cioè lo scontro, mentre prima era ancora, ci fu una fase di propaganda armata, no? E questo era un tempo in cui chiaramente trovava sedimento nella casa operaia, nel proletariato extralegale, nelle carceri, trova proseliti, trova motivazioni, no? Quando invece lo scontro diventò prettamente militare, e sicuramente l'azione Moro fu un'azione squisitamente di alto livello militare, no? Fatta eccezionalmente bene, diciamo, guardandolo in modo staccato e senza giudizi morali. Però proprio per questo significò il punto più alto significò proprio il momento del crollo, della caduta. Io lo avevo intuito così, non ero più d'accordo sinceramente, oggi lo posso dirlo, chiaramente all'epoca non mi esprimevo, perché non era facile esprimersi così, sembrava quasi che volessi essere un disfattista, ma mi sembrava proprio che l'aspetto militare era diventato feroce, ma anche da parte del potere, non solo nostro chiaramente. Veramente devo dire che non c'è possibilità con la lotta armata di risolvere i conflitti, non c'è possibilità, perché si è destinata a sconfitta, alla perdizione, alla morte, al carcere, è inevitabile. Il perdono è l'unico modo di risolvere un conflitto. E non si può dare giudizio morale del perché. Intanto appartiene alla parabola cristiana, no? Il concetto del perdono. Perché se tu perdoni, anche se l'altro è un assassino, dei peggiori, e lo perdoni continuamente, quello alla fine si deve rendere conto che non ha senso quello che fa. Lo so che è difficile accettare questa visione, no? Ma il perdono è necessario. Io mi sono salvato anche perché sono un poeta, forse l'immagine poetica della mia vita mi ha aiutato a rimanere, diciamo, ancorato alla realtà, no? Altrimenti sarei impazzito. Ok, questo era Ossigeno di Piero Cannizzaro. La voce di Agrippino Costa è stata l'ultima proiezione che abbiamo fatto al Valle. Ed è un film che ci ha risuonato molto per tanti temi, soprattutto quando tocca anche dei momenti di unione tra arte e politica molto, molto forti. Lui è un poeta, un ladro di opere d'arte, è stato pittore, brigatista, pittore, senza mai senza mai uccidere, si è fatto 20 anni di carcere, evaso da tutte quante le carceri italiane e europee quasi. Insomma, è un personaggio assolutamente brigantesco, funambolico, avventuriero, e questo spirito piratesco ci ha catturato con una riflessione sul cinema. È un documentario estremamente interessante, è un ritratto, un'inquadratura quasi unica su un volto, e abbiamo voluto appunto proiettarlo in radio, e non è escluso che non ne faremo altre boccate d'ossigeno nelle prossime puntate. E adesso una sorpresa musicale dal vivo. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambio el más fino brillante de mano en mano su brillo, cambio el nido, el paglierillo, cambio el sentire un amante, cambio el rumbo del caminante, anche se el case daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Todo cambia, cambia y todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pela y la fiera, cambia el cabello y el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más leyes que me encuerde, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia y todo cambia. Cambia, cambia e tutto cambia. Ah, che emozione dal vivo, questa musica e questa voce, bellissima. Sì. Io direi che ne potremmo fare pure qualcun'altra di queste cose qua, che sì, dici? Sì, Fede? Sì. Questa poi Elisa con Todo Cambia, io l'avevo fortemente voluta qui. Sì, infatti, è come al solito colpa tua tutto quanto, tutto quello che succede. Quindi noi ci, come diamo, come si dice, alziamo le mani e non abbiamo responsabilità rispetto a tutto quello che succede in radio. No. Elisa in particolare ce la teniamo stretta, nel senso che proprio è una figura del Valle Occupato. Quasi mi verrebbe da chiederle come ci sei arrivata. Al Teatro Valle Occupato ci sono arrivata dalla Sardegna, prima di tutto, per un laboratorio che durava un mese di recitazione, tenuto da Danilo Nigrelli. Ah, Danilo. Sì. E ci tengo a dire quanto costava questo laboratorio, perché è una cosa molto importante, secondo me in linea con quello che porta avanti il Teatro Valle. Costava 200 euro e il laboratorio era tenuto ogni giorno. Abbiamo fatto una pausa per Ferragosto. E il Teatro Valle ha dato la possibilità a chi non aveva casa a Roma di dormire, infatti io ho dormito là, sono rimasta un mese tutti i giorni dentro questo teatro. Però sappiamo bene che 200 euro per un mese tutti i giorni è un prezzo veramente quasi ridicolo, mi viene da dire, anzi non ridicolo ma importante, ecco, importante, un prezzo giusto. E dopodiché mi sono innamorata dell'obiettivo del Teatro Valle, di quello che porta avanti da un anno e mezzo, quindi ho deciso di continuare questa permanenza e di occupare anch'io e di rioffrire questo teatro alla città di Roma e anzi a tutti, non alla città di Roma. Quindi sono da 7 mesi sto occupando il Teatro Valle. Proprio questa settimana però torno un attimo a casa per riposare, perché è importante dire che noi siamo qua in teatro e lavoriamo 24 ore su 24 per riaprire il teatro e offrirlo alla cittadinanza e a chi passa e vuole diciamo riappropriarsi di un bene che è suo, tant'è che come si sa noi stiamo facendo un ragionamento sui beni comuni, quindi su... Ah sì, prego. No, ti volevo chiedere perché te ne torni a casa? Che cos'è che ti ha ridotto uno straccio nelle ultime settimane? Di che cosa ti sei presa cura e che cosa ci hai fatto assaporare in questi giorni? Ecco, sì, diciamolo. Un po' di responsabilità ce l'ha questo progetto che portiamo avanti da 2 mesi a questa parte, che è riuscito a diciamo sì, che è qua, stiamo ospitando, si sta realizzando da una settimana a questa parte, è il progetto di Tanzite, di cui abbiamo parlato anche la scorsa settimana in radio, che è un progetto di danza contemporanea tenuto e curato da Livia Patrizzi, una coreografa che ha danzato anche nella compagnia di Pina Bausch e che ha la sua sede a Berlino, che ha fatto tutto un ragionamento lì a Berlino per riuscire a inserire la danza contemporanea come materia obbligatoria di studio nelle scuole pubbliche. Loro dal 2005 hanno inserito questa materia. Senti, e siamo proprio nel cuore di questa settimana. Siamo nel cuore. E che cosa sta succedendo? Sta succedendo che il 2 e il 3 febbraio c'è stato un bellissimo, intensissimo workshop per danzatori e formatori, tenuto da Livia Patrizzi e da Joe Parkers. Sono stati 2 giorni intensissimi e meravigliosi al teatro, perché vedevamo i danzatori che danzavano in strada, hanno occupato tutto lo spazio del teatro e sono rimasti molto molto contenti. Invece da lunedì è partito un laboratorio, un workshop dedicato alle scuole superiori, quindi ai ragazzini dai 16 ai 18 anni che stanno sul palco del Teatro Valle e imparano pezzi di danza contemporanea, insomma fanno tutto il lavoro sul corpo. E i loro insegnanti, sono dei ragazzi praticamente loro, della loro età. C'è un insegnamento peer to peer e voi entrate in teatro e vedete scene meravigliose di questi che parlano in tedesco, in inglese, in italiano e insegnano a questi ragazzi giovanissimi che hanno diciamo un'energia pazzesca. Senti, da oggi fino a sabato che succede? Da oggi fino a sabato, oggi diamo dei riferimenti anche per chi vuole venire a trovarci. Esatto, anche perché le prove e i laboratori sono aperti agli uditori. Dunque stasera dalle 15.30 alle 18.30 prosegue questo laboratorio, quindi chi ha voglia di passare al Teatro Valle e anche vedere semplicemente questo spettacolo meraviglioso di formazione di gioventù è ben accetto. E lo spettacolo? Dopodiché invece da domani sarà una giornata intensissima, perché alle 11 abbiamo la matinée per le scuole, ma ovviamente è aperto a chiunque, lo spettacolo Waft, Chi ha paura della danza, che è lo spettacolo di questa compagnia giovane, Tanzite Jugend Company Evoke, mentre sempre domani dalle 8 agosto ci sarà la presentazione del workshop, del lavoro che hanno fatto col workshop per gli studenti, e a seguire alle 9 di nuovo la replica dello spettacolo. E anche sabato, e anche un'altra sabato, replica. E anche sabato. Grazie. Vogliamo dire anche che sabato ci sarà un momento di accoglienza un po' particolare con musica dal vivo nel foyer. Voi diciamolo, non lo sapete, ma ve lo dico io. Grazie. Sorprese a sorpresina, a ripetizione. Quindi, perfetto, okay. Grazie. E allora approfitto di questo momento per dare anche dei piccoli flash sui prossimi appuntamenti. Io un flash lo do al volo, perché sì, oltre alla voce di Elisa c'era anche un violoncello, citiamolo, insomma. Assolutamente, vogliamo presentare. Buonasera a tutti, mi chiamo Gheorghe Gusev e un saluto da Elisa, se mi senti noi siamo qui anche a Rione San Lorenzo, ciao. Grande. Allora, da lunedì il Teatro Valle per due settimane sarà rioccupato dalla compagnia di Valerio Binasco, e per tutta quanta la giornata in teatro ci saranno le prove di Romeo e Giulietta, che è in riallestimento. Ora, secondo noi la cosa importante di questa collaborazione con questa compagnia è il fatto che queste prove saranno aperte al pubblico ad ogni ora della giornata, quindi dalla mattina alle 10 fino al pomeriggio alle 18:30, orario in cui finiscono le prove, chiunque può entrare in teatro, sedersi nei palchetti e gustarsi le prove. Questo a nostro avviso è molto importante, perché è una compagnia di questo livello quasi mai permette la visione delle prove prima dello spettacolo, quindi ci sembrava un riportare proprio alla cittadinanza anche questo tipo di teatro. E poi avremo una stretta collaborazione con tutta la compagnia, quindi in ogni serata delle due settimane ci saranno delle performance, degli eventi con noi e con gli attori della compagnia, a partire da mercoledì 13, che è una serata in cui Valerio Binasco aprirà il suo lavoro al pubblico e quindi farà una lezione aperta molto divertente sul lavoro che fa sul testo. E poi via via ci saranno altri appuntamenti che magari diremo in seguito. Benissimo. Lorena? Non dobbiamo chiudere? C'è una cosa di cui invece volevo dare comunicazione, perché siamo un po' stanchi di fare queste figure non proprio eccezionali in radio, e quindi ci siamo autodotati di un laboratorio di radio. Cioè a fine febbraio abbiamo organizzato un laboratorio in collaborazione con La Sapienza, con l'università, e Roberto Paci Dalò della compagnia Giardini Pensili. Questo laboratorio servirà per sviluppare finalmente, speriamo, un radiodramma che cerchiamo di comporre da questi incontri. Roberto Paci Dalò è un musicista, regista, che sta cercando di fare un progetto da anni. Lui cura una delle prime web radio che si chiama Radio Lada, e appunto il laboratorio sarà il 26, il 27 e il 28 febbraio dalle 15 alle 21. Sul sito del Valle ci sono le informazioni più specifiche rispetto al laboratorio e il come partecipare. In particolare ci sarà anche l'esempio di un progetto molto interessante che fu fatto per il Teatro di Roma proprio da Roberto Paci Dalò durante la direzione artistica di Martone. Lui si inventò sul sito web del Teatro di Roma un palcoscenico elettronico, ossia una pagina dove poter fare un cartellone, cioè dove poter fare delle performance di musica, radio, teatro specifiche solo per quella pagina lì. Quindi sicuramente si utilizzava un sistema audio video per vedere, ma erano anche opere di net art, quindi è uno sviluppo un po' sulla drammaturgia dei media. E questo quindi avverrà a fine febbraio. Ci sono ancora forse qualche possibilità di iscriversi. Chiaramente ci torneremo sopra. Ci torniamo sopra. L'indirizzo mail per partecipare è navescuola.tv@gmail.com. Che preparazione! Che preparazione! La nostra annunciatrice preferita è l'Emiliano. Allora, Valerio, un saluto per chiudere. Tu hai anche uno strumento che potresti portare in radio. Assolutamente. Mi piacerebbe portare... No! No, qui proprio non c'entra. No, mi piacerebbe portare un Wurlitzer, che è un pianoforte anni 70, abbastanza trasportabile, con cui potrei venire a fare qualche follia. Qui. Perché no? Perché no? Nello spazio valle, d'altronde, tutto sarà possibile in questo senso. Vuoi dire qualcosa, Emiliano? Leggo il terzo indizio. Terzo indizio e poi sigla finale. Abbiamo tre minuti, d'altronde. In quel periodo gli italiani avevano capito che ogni film nasce da un'unione di talenti. Come in una bella litigata in famiglia. Ognuno ci metteva del suo. Quando un Mario lavorava con un Dino, un Ettore passava a trovarli per leggerne un pezzetto, un Guido veniva a proporre un'idea e chiamava un Giuseppe per chiedergli un parere. E giù telefonate dal Piemonte alla Sicilia. Sono in un letamaio, questa cazzo di storia mi sta rompendo le palle, per la Madonna, vieni a tirarmi fuori di qua. Indovinate. Questo sarà il nostro prossimo radiodramma, la nostra prossima fatica. Esatto. E dalla sigla traiamo un pezzo di danza radiofonica invece. Ascoltate, buon ascolto e ci sentiamo la settimana prossima. A risentirci. Ciao. Alla prossima settimana. Ciao. Ciao a tutti. From the concert hall now into the song and dance business. Well, dance actually. And you're there in the theater. Come along with me through the side door here. That's right. Now mind the step. Second row, miss, I think. Excuse me. Thank you. Oh, so sorry, your feet. I do beg your pardon. Ah, well, there we are. Can you see all right? So much for the dancing girls. Stereophonic sound for dance music. Edmundo Ross and his orchestra. Rhythm group in the middle, brass on the left, saxes on the right. On the left, saxes on the right. Did you get the interplay between them? Not unlike a sort of game. A game of tennis, table tennis, ping pong. Or should I say, ping pong. Ping pong. Stereophonic sound for realism. Our journey takes us to Switzerland, to Geneva and the Victoria Hall, where Ernest Ansermet, the distinguished conductor, is rehearsing his orchestra, the orchestra of the Suisse Romande. Un, deux, trois, voilà.